16a nel Berachot, subito dopo la Mishnah, abbiamo studiato nella Mishnah che gli operai che stanno lavorando, e anche se si trovano sopra un albero o sopra un corso o una fila di pietre che stanno posando per creare un costruire un muro, devono hanno il permesso di interrompere e leggere lo Shema. Questo abbiamo studiato nella Mishnah. Ora uno potrebbe chiedere perché siamo andati così lontani a prendere un caso così strano che parla di operai che stanno sopra un muro, sopra un albero, per parlare dello Shema. In realtà questa non è una regola che riguarda lo Shema. È una regola che riguarda gli operai. Visto che gli operai sono pagati per il loro tempo, la domanda in realtà è se l'operaio ha il permesso di fare la mitzvah dello Shema sul tempo del datore di lavoro. Non è un'alakha che riguarda lo Shema. È un'alakha che riguarda l'onestà nel lavoro. E ora approfondiremo questo tema un po' nella Gemara. Vediamo cosa dice la Gemara. La Gemara dice: Tanu Rabbanan, i maestri hanno insegnato in una baraita, in una forma allargata di quanto abbiamo studiato nella nostra Mishnah in maniera più breve. Nella baraita vediamo più dettagli. Ha'umanin, gli operai. Oggi in ebraico moderno uman è un artigiano, un artista. Però in senso più antico umanin sono operai. Chi lavora con le mani, operaio. Ha'umanin korin berosh ha'ilan, leggono lo Shema mentre stanno lavorando sopra l'albero, o uberosh ha'nidbach, oppure sopra questa fila di pietre che stanno posando per costruire un muro. Inoltre aggiunge altri due esempi. Umitpalelin berosh ha'zait, possono fare tefilah, quindi si intende la Amidah in questo caso, in cima all'ulivo, Zait, u berosh ha'teina, e in cima al fico. Perché? Perché questi sono alberi, in particolare sono stati scelti questi come esempi, perché sono alberi che hanno molti rami, e non è facile salire e scendere da questi alberi, e non solo. C'è anche la paura che salendo e scendendo troppe volte si rovinano e si spezzano troppi rami. Allora in questi due casi che abbiamo fatto esempio, si fa la tefilà sopra l'albero. Mentre invece la baraita continua dicendo Ushear kol ha'ilanot, per ciò che riguarda tutti gli altri alberi, qual è il comportamento? Yordin le mata, scendono giù dall'albero, umit palelin, e fanno la loro tefila. Ok? Molto bene. Questo per ciò che riguarda gli operai. Però, ubal habait, letteralmente vuol dire padrone di casa, ma quello che si intende è il datore di lavoro. Per ciò che riguarda il datore di lavoro, ben kach u ben kach, qualsiasi sia il tipo di albero, comunque yored le mata umit paleli. In ogni caso scende giù e fa la sua tefilà. Perché? Perché a differenza degli altri operai che sanno come stare sopra gli alberi, il datore di lavoro ha meno possibilità di concentrarsi quando sta sopra l'albero, allora lui è obbligato a scendere e fare la tefilà, a lui non è stato permesso fare la tefilà sopra l'albero, dove è meno facile concentrarsi. Perché teoricamente ha meno esperienza del lavoro diretto. Come? Perché teoricamente ha meno esperienza, praticità nello stare... Esatto, una delle spiegazioni, quella più semplice, è che ha meno esperienza, ha meno possibilità di stare su... Sì. E la Braita lo dice, dice enda atomi uscevet alav, la sua mente non è Non è Stabile, calma, non è stabile, non è chiara, non ha questa tranquillità, ecco, non è tranquillo. Visto che non è tranquillo, deve scendere giù e fare la tefila giù. Ok? Questo abbiamo parlato riguardo la tefila, ma riguardo allo Shema, vediamo sempre che nello Shema Grazie. Nello Shema il criterio è meno rigoroso, perché lì nello Shema anche il datore di lavoro può rimanere sopra e leggere lo Shema. Invece nella Tefilah siamo più rigorosi, l'abbiamo visto anche nella Mishnah, quando abbiamo parlato dell'operaio che sta sopra, che gli è permesso fare lo Shema sopra, ma per la Tefilah non gli è permesso farla sopra, che si richiede più concentrazione per la Amidah, abbiamo detto nella Mishnah, giusto? Proprio questo discorso qui della differenza di importanza nella concentrazione tra lo Shema e l'Amidah è un discorso che adesso andremo ad affrontare per capire meglio, anche perché sembra una contraddizione con quanto noi abbiamo già studiato in precedenza, che per lo Shema serve la concentrazione e non abbiamo fatto differenza tra Shema e Amidah. Qui sembra che ci sia un criterio molto basso per la concentrazione dello Shema, mentre invece si tiene un criterio più alto per la concentrazione dell'Amidah. Perché? Ora vediamo. La Gemara dice così. Questa domanda è stata posta, quella che alla quale abbiamo alluso adesso e che adesso citeremo, è stata posta da un maestro della Gemara. Chi era questo maestro? Ramelei posò questa contraddizione. Chi la presentò? Rav Mare, maestro che si chiama Rav Mare, Bera de Bat Shmuel, lui era il figlio della figlia di Shmuel. Shmuel era uno dei più importanti maestri della Gemara, degli Amoraim della prima generazione, era allievo di Rabbi Yehuda Hanasi, il redattore della Mishnah. Suo nipote, figlio della figlia, era anche lui un Rav, si chiamava Rav Mare. Rav Mare sollevò questa contraddizione, le Ravah, dinanzi a Ravà, uno dei più grandi capi delle Yeshivot della Babilonia del tempo della Gemara. Disse a Ravà: abbiamo studiato nella nostra Mishnah, Tenan, nella Mishnah della nostra pagina, cosa abbiamo studiato? Che Ha'umanin Korin Berosh Ha'ilan, che gli operai leggono lo Shema dove? Anche quando stanno in alto, in cima, sull'albero. Ubero Shanitbach, anche quando stanno sulla fila di pietre che stanno posando per costruire il muro. Alma, vediamo da qui, l'Abba e Kavanah, che lo Shema non richiede una buona, profonda concentrazione. Perché se si richiedesse una concentrazione, non sarebbe possibile farlo sopra una fila di pietre che si sta costruendo. D'altra parte, Uremini ha sollevato, Remini vuol dire letteralmente ha sollevato, cosa ha sollevato? È un codice, Ramin Hu o Ramin Hi, ha sollevato una contraddizione tra due fonti, fonti che sono simili, sono entrambe di Tanaim. Qual è la seconda fonte? In una baraita abbiamo studiato. Hakore et Shema, colui che legge lo Shema, e se vi ricorderete questa citazione l'abbiamo già vista prima. Tzarich sheyechaven et libo, colui che legge lo Shema deve fare attenzione, concentrarsi su quello che sta dicendo. Shenemar, e ci siamo appoggiati al versetto che dice, come è detto, Shema Israel. Il versetto dice ascolta. E lo paragoniamo ad un altro versetto in cui è scritto ascolta. Ulehalan, un po' più avanti nella Torah, nel libro di Devarim, è scritto Hu Omer, egli, cioè la Torah dice, Hasket Ushema Israel. La Torah usa la parola non solamente Shema, ascolta, ma anche Hasket Ushema, fai attenzione ed ascolta. Così dice la Torah. Allora noi applichiamo l'attenzione che è esplicita nella seconda volta che è scritto Shema Israel, anche alla prima volta che non è esplicita, che quando dice Shema Israel intende dire ascolta con attenzione, con la dovuta concentrazione. Ma le halan behasket, dicono i maestri della Baraita, così come più avanti quando dice Shema lo introduce con la parola hasket, fai attenzione, afkan behasket, anche qui si applica lo stesso hasket, anche nello Shema dove non è scritto esplicitamente hasket, ma si intende applicare anche lì il concetto di fai attenzione, hasket ushma Israel, come se fosse scritto anche qui, hasket, fai attenzione. Vuol dire, questa baraita ci sta insegnando che cosa? Che quando si legge lo Shema bisogna avere la concentrazione su quanto si sta dicendo. Mentre nella nostra Mishnah sembra che l'operaio può farlo sopra le pietre e non serve questa concentrazione. Una contraddizione tra le parole dei nostri maestri Tanaim. Salute. In un caso nella Mishnah, nel secondo caso in una baraita. Come si risolve questo problema? Che noi vogliamo capire non solamente come si mettono d'accordo i Tanaim, ma soprattutto qual è la cosa ci richiede la Halakha. Bisogna avere una grande concentrazione nello Shema come requisito minimo, oppure no? Oppure si esce l'obbligo anche senza? Ravà udì questa domanda dalla bocca di Ravmare, il figlio della figlia di Shmuel, e cosa fece? Vediamo cosa dice la Gemara. Ishtek. Che vuol dire? Si è zittito. Rimase in silenzio. Non aveva risposta. Una forte contraddizione. Ecco, vediamo l'umiltà di Ravà, che non solamente non aveva risposta, cioè non solamente rimase in silenzio quando disse di non aver risposta, ma disse addirittura la seguente cosa. A Marley disse Ravà a lui, invece di dargli una risposta, che per la risposta rimase in silenzio, gli dice all'allievo, che Rav Mari in teoria era minore di importanza come Rav rispetto a Ravà, gli disse, Mide shemi alach beha? Hai forse sentito tu qualcosa per risolvere questa questione? Il maestro si rivolge all'allievo e dice, forse tu ci puoi aiutare. Amar lei gli disse, effettivamente ho sentito qualcosa da un altro maestro, uno dei grandi Amoraim. Amar lei gli disse, Hachi Amar Rav Sheshet, così disse Rav Sheshet. Rav Sheshet disse che la halakha che abbiamo studiato nella nostra Mishnah, che gli operai sopra, in cima, all'albero, eccetera, recitano lo Shema, lui, Rav Sheshet, ha aggiunto una riga. Non letteralmente ha aggiunto la riga, ma ha aggiunto la spiegazione. Ha detto, Vehu, questo è stato detto, in che caso? Shebetelin mimelachtan vekorin, che rimangono cessano il loro lavoro, la loro opera per quel momento e leggono lo Shema. Non che leggono lo Shema mentre stanno lavorando. È vero che stanno sopra l'albero o che stanno sopra il muro e stanno posando le pietre, ma quando la nostra Mishnah ha detto che loro leggono, è che loro possano fermarsi, concentrarsi e recitare lo Shema. Cioè non che non si richiede la concentrazione come abbiamo capito prima dalla Mishnah. E così effettivamente è decisa la Halakha anche nello Shulchan Aruch, nel Rambam, eccetera, che, come spiegò Rav Sheshet, che quando si dice che gli operai sono obbligati a leggere lo Shema, non è durante mentre lavorano, stanno nel contesto lavorativo, rimangono sopra il muro, però devono fermare, cessare un attimino il loro lavoro e poi procedere dopo che hanno letto lo Shema. Mi sembrava normale che interrompessero io. Quando si parlava di quell'esempio, cioè, se uno deve lo Shema interrompe lo Shema. Allora, a te sembrava normale, però perché non è questo necessariamente è scontato? Perché non è se scontato? Se stai lavorando o se stai prendendo tempo da... Non è scontato perché stai prendendo tempo... Da lavoro. Esattamente. Ecco perché ho detto all'inizio, qui è una halakha che riguarda più il lavoro che lo Shema. Ti è permesso, tu sei pagato per quello. La domanda è, sei pagato per questo? Ti è permesso fermarti... Ogni tempo il datore di lavoro. Ti è permesso fermarti per leggere lo Shema? Allora qui la Sheshet ci sta insegnando. Adesso vediamo. Rav Shech ci sta insegnando che hai il permesso di fare una breve pausa per leggere lo Shema, ok? Ma riguarda un padrone ebreo. Se è un padrone goi, lì subentra il problema. Il padrone ebreo non è detto che sia automatico. Adesso vediamo. No. Adesso vediamo. Oggi si chiama pausa caffè. Si è detto. Adesso vedremo anche la pausa caffè, ragazzi. Un po' di pazienza. No. Ora, la Gemara, prima di tornare direttamente al tema, fa un attimino una parentesi. Dice: in teoria noi abbiamo una fonte che dice il contrario di questo. Ecco perché non è così scontato anche. Abbiamo una fonte che dice che si occupano del loro lavoro e mentre si occupano del lavoro leggono lo Shema. Che è diverso da quello che ha detto Rav Sheshet. Ed è più importante questa fonte che citeremo perché è una baraita, è una fonte di Tanaim, i maestri della Mishnah. Rav Sheshet è successivo, è un maestro di una Morà, è un maestro della Gemara. Allora vediamo se la sua teoria può rimanere in piedi. Chiede la Gemara, Ve'atania, eppure noi abbiamo studiato in una baraita, Beit Hillel Omrim. I maestri della casa di Hillel, dicono, la Yeshiva di Hillel, Oskim bimelachtan, gli operai si occupano del loro lavoro, Vekorim, e mentre si occupano del lavoro, leggono lo Shema, recitano lo Shema. Questo, in teoria, rifiuta ciò che disse Rav Sheshet, che loro devono fermarsi dal lavoro e leggere lo Shema. Secondo quello che ha detto qui Beit Hillel, sembra che non hanno il permesso di togliere quei 5 minuti dal padrone, dal datore di lavoro, e devono continuare a lavorare mentre recitano lo Shema. E quindi in questo caso ci ritorna il problema di prima. Si deve concentrare o non si deve concentrare? Se stai lavorando, come fai? E quindi c'è l'altra contraddizione che abbiamo citato prima dall'altra braita, tra la nostra missione e la braita. E poi fai male tutti e due. Esatto. Allora la Gemara dice, no, alt, non creare problemi. Ragione quell'altro. No, si parla di qualcos'altro. Beit Hillel non stava parlando di questo. Di cosa stava parlando Beit Hillel? Cosa si legge oltre allo Shema? Vediamo. La Akashia, non c'è difficoltà. Ovvero non è una contraddizione. Habe perek rishon, habe perek sheni. Quanto abbiamo detto che bisogna interrompere e leggere lo Shema è un riferimento alla prima parte, il primo paragrafo dello Shema. Perek rishon, ricordate che abbiamo usato il termine perek, capitolo, per le parti, i paragrafi dello Shema, primo, secondo, terzo. Il primo bisogna fermarsi. Come ha detto effettivamente Rav Sheshet, e così abbiamo interpretato la nostra Mishnah, che gli operai leggono lo Shema in cima all'albero, vuol dire che interrompono e leggono, hanno il permesso di prendere questi minuti dal datore di lavoro e leggere lo Shema. Questo però è un riferimento di nuovo alla prima parte dello Shema. Habe perek sheni, quanto ha detto la Baraita di Beit Hillel, che leggono mentre lavorano, è un riferimento alla seconda parte in poi. Dalla seconda parte dello Shema in poi, devono leggere, ma devono anche continuare a lavorare. Lì già non possono più prendere tempo dal datore di lavoro e devono proseguire con il lavoro mentre continuano a recitare lo Shema dalla seconda parte in poi, Vayayim Shamoa in poi. Ok? Sì. Benissimo. Allora qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiarito che lo Shema, così come ci conferma quanto abbiamo studiato all'inizio del capitolo, che come minimo il primo versetto, ma anche il primo paragrafo, richiede una kavanà per la quale è così importante, per la quale, visto che c'è una scadenza di tempo, per la quale quindi si può interrompere anche dal lavoro che si sta facendo e recitare questa prima parte. E mentre invece la seconda parte in poi si può recitare anche mentre si lavora e da lì non si toglie già il tempo, perché lì si esce l'obbligo anche con un tasso, diciamo, di concentrazione minore, se vogliamo. Ovviamente è meglio fare in un'altra maniera, ma se una persona inizia a lavorare alle 4 della mattina e non si può recitare lo Shema ancora e va fino alle 11, che è già dopo la scadenza, qualche soluzione ci deve essere. La soluzione è che si ferma per il primo paragrafo, giusto quel tempo, e dal secondo deve continuare a leggere così. Ora, visto che abbiamo parlato qui di questa halakha che riguarda l'operaio, noi l'abbiamo impostata come halakha dello Shema, no? Perché qui siamo, il contesto è l'halakha dello Shema, il contesto di questo paragrafo. Però ci è venuto dal... Ora citiamo una baraita che invece va esplicitamente a trattare diversi momenti di mitzvot nella giornata come un operaio che sta lavorando per il suo tempo, quindi il tempo non è suo, come si deve comportare rispetto a queste mitzvot che vanno fatte nel corso della giornata. Quindi non solamente lo Shema, lo vediamo proprio dal punto di vista del lavoratore. Cosa dice la Gemara? La Gemara cita di nuovo una baraita. Prego. Nella griacema della sera, prima di andare a dormire, allora nel rito italiano, ecco perché c'è solo, solo la prima parte. Io pure sto per dire la stessa perché? Cosa. C'è solo la prima parte della griacema, forse perché allora la seconda... Perché ti spiego, perché in realtà questo è un altro motivo. Motivo per cui nel rito, alcuni riti, nello Shema che si dice prima di andare a letto, sì, che si chiama lo Shema al-Hamitah, no? Che no, perché non è lì, non si recita la Shema lì per obbligo. L'obbligo dello Shema è quello di Shacharit e quello di Arvit. Sì. Quello due volte al giorno c'è l'obbligo. Quello che si recita prima di andare a dormire è una cosa in più, che è legata alla protezione prima di andare a dormire. E lì ci sono differenze tra i riti, quali sono i brani che si dicono o si omettono, altri brani dei salmi che si dicono. Sì. Questo in base al rito. Ma perché questo non è la mitzvah, ah, okay, obbligo di recitare lo Shema. È un altro tipo di... No, di, pensavo, di contesto. Io pure bravo, pensavo pure. Io forse era... Infatti si basa su questo, per dire, certo, prendi il minimo, sì, esatto, ma non perché ti serve di uscire d'obbligo di qualcosa lì. L'obbligo lo sei già uscito con Arvit, no, l'obbligo dello Shema. Ok? Sì, che poi mi ricordo che probabilmente c'era quella discussione sui brani dello Shema Tadire, per cui si era arrivata alla conclusione di dire comunque tutte e tre. Lo Shema così come leggiamo adesso, uh-huh, è un compromesso fra la scuola di Israele con quella di Babilonia, se è arrivato male. Ma dove? Su ogni Shema normale? Sullo Shema normale, su quello della sera praticamente, perché non c'era... Su quello di andare a letto? Questo, su quello di andare a letto, mi sembra. Sullo Shema della mattina e la sera, non credo. Può darsi che sbaglio. No, può essere che sbaglio, non so. No, sicuramente avevo capito male io. Ok, Tanura, Banani, maestri hanno insegnato. Ragazzi, andiamo avanti. Hapoalim, qui il soggetto sono proprio gli operai. Hapoalim, Shehayu, Osin, Melacha, Ezel, Balabait. Degli operai che stavano eseguendo del lavoro presso un datore di lavoro. Allora, per ciò che riguarda lo Shema, Korin, Kriyat Shema, leggono la lettura dello Shema. Un mevarchin le fanea ule acharea. E non solamente leggono lo Shema stesso, ma dicono anche le berachot che precedono e che seguono lo Shema. Il yotzer, che è prima, e le berachot che sono dopo. Quindi lo fanno al completo. Questo per ciò che riguarda lo Shema. Ciò che riguarda invece il quando mangiano, fanno la pausa a pranzo, per ciò che riguarda la birkat Amazon. Veochlin pitan umevarchin, mangiano il loro pat, pitan, il loro pat, cos'è pat? Pane, quindi il loro pasto, e benedicono, che bracha dicono? Lefanea, la bracha che si dice prima di mangiare, uleacharea, e la bracha che si dice dopo di mangiare, cioè fanno tutto per ciò che riguarda la birkata amazone, il pasto. Inoltre, per ciò che riguarda la tefila, cioè l'amida, umit palelin tefila shel shemone esre, leggono l'intera amida di 18 berachot. Ora vediamo perché indichiamo il 18. E poi aggiunge, però, alcune cose non le devono fare, cioè, aval en yordin lifne hateva, non vanno davanti alla tevà, cioè l'operaio non può officiare una tefilà per un pubblico perché lì già prende troppo tempo dal balabait, dal datore di lavoro. Non può fare lo shaliach tzibur, sta prendendo troppo tempo della melachà, dell'opera che deve fare, del datore di lavoro. E inoltre, il secondo vincolo, Ve'ein nosin kapehem, se l'operaio è kohen, non fa la nesiat kapaim. Nesiat kapaim sarebbe l'alzata delle mani. Cos'è l'alzata delle mani? La berakha. Non fa la berakha, non prende il tempo per andare a fare la berakha agli altri. La berakha dei konim. Ok? Quindi ci sono questi due vincoli. Questo abbiamo studiato nella braita. Ora c'è una braita contrastante. Cosa dice l'altra braita? Ah, Tania, ed ecco che abbiamo studiato un'altra baraita. Me'en shemonesre. Me'en, ma se me'en? Senza. No, me'en con una ain, non con un alef. Me'en, come si dice me'en olamaba? Un assaggio dell'amida. Un po' dell'amida, un microcosmo dell'amida. Non l'amida intera, ma una pillola, una formula che vedremo più avanti che formula è, ma è un unico paragrafo che riprende in maniera breve tutta la midà. Adesso ce la dici. Non ce lo dice mica, che sennò puntiamo tutti su quello. Però se stai sull'albero. Però c'è. Ah, Tania, stai sull'albero non per svago, perché stai ti pagano il minuto. Ah, Tania, me en shmonesre. Invece in un'altra braita che mettiamo a confronto con questa abbiamo una fonte che dice che non dice tutta l'amida 18 a shmonesre, tutte le benedizioni, bensì solamente il microcosmo, la versione il bignami, la versione breve. Alla Gemara risponde, non c'è difficoltà. E di nuovo Rav Sheshet che ci risolve il problema. Amar Rav Sheshet. La Gemara cita Rav Sheshet che dice, la Akashia. Di nuovo non c'è difficoltà, non c'è contraddizione. Ha Rabban Gamliel. La prima braita che abbiamo citato in cui è detto che gli operai devono dire tutta l'amida è l'opinione di Rabban Gamliel. Ha Rabbi Yehoshua. E la seconda braita citata che dice che devono recitare, che possono, devono recitare solo la breve Amidah, questa è l'opinione di Rabbi Yehoshua, ovvero effettivamente c'è una discussione tra i Tanaim, non è una contraddizione, è una discussione. Una opinione, quella di Rabban Gamliel, sostiene che bisogna recitare tutta l'Amidah anche in quella circostanza, mentre una opinione contrastante che è quella di Rabbi Yehoshua, Rabban Gamliel e Rabbi Yehoshua hanno discusso su molte cose e Rabbi Yehoshua sostiene che no, non ha il permesso di prendere il tempo di dire tutta l'Amidah, ma solamente limitarsi alla versione abbreviata. Ok? Poveretto questo operaio. Allora la domanda che la Gemara dice adesso: se questa baraita concorda con l'opinione di Rabbi Yehoshua che bisogna leggere solo una parte, cioè che abbiamo la possibilità di recitare solamente un bignami, una parte, un'abbreviazione dell'Amidah. Se noi andiamo a vedere l'opinione di Rabbi Yehoshua nella sua fonte, lui non fa riferimento a operai. Lui dice che in generale, non dite a nessuno, che in generale è possibile in alcune circostanze per una persona dire l'Amidah breve, indifferentemente del fatto di prendere il tempo dal datore di lavoro, quindi non parla di operai. Chiunque, in alcune situazioni, i casi limiti. Esatto, allora la Gemara dice scusa. Come abbia fatto a Mazzona, ascoltate la domanda, la Gemara dice, tu mi hai risolto il problema dicendomi che la baraita che dice che tu fai la amida abbreviata è semplicemente un'altra opinione, quella di Rabbi Yehoshua, cioè, allora scusa, perché parla di operai? L'opinione di Rabbi Yehoshua riguarda non solamente operai. I Rabbi Yehoshua, dice la Gemara, se questa baraita concorda con l'opinione di Rabbi Yehoshua, mai i riapoalim? Perché mai parla in particolare del caso degli operai? Afilu kol adam, nami. Qualsiasi altra persona anche rientrerebbe in questo secondo Rabbi Yehoshua. Se invece la baraita parla di operai, umanin, forse rimane una contraddizione, forse non è l'opinione del Rabbi Yehoshua, perché è strano che Rabbi Yehoshua parlasse solo di operai se la sua opinione riguarda tutti. Allora la Gemara accetta questa contestazione e dice, sai cosa? Hai ragione, ho un'altra soluzione. non più la soluzione che, sono, che è una discussione, che questa è l'opinione di Rabban Gamliel e questa è l'opinione di Rabbi Yoshua e così abbiamo risolto. Perché non abbiamo risolto, perché se fosse l'opinione di Rabbi Yoshua, di nuovo, non si parlerebbe solamente di operai. Ok, hai ragione, ora ho un'altra soluzione, dice la Gemara. E là solamente, la soluzione sarà la seguente. Ide veide Rabban Gamliel. Entrambe le cose che abbiamo detto dalle due Beraitot sono entrambe concordanti con l'opinione di Rabban Gamliel. Non dobbiamo inventare una nuova discussione. Però una dice l'amida intera, una dice l'amida abbreviata, è sempre Rabban Gamliel. La kasha non è una difficoltà, è una differenza nel tipo di operaio, nel tipo di contratto. Vediamo un po'. Kan beosin bischara, kan beosin biseudatan. C'è una differenza. Se l'operaio lavora e riceve uno stipendio, o se l'operaio lavora e riceve solamente il vitto, il pranzo, il pasto, beseudatan, il loro pasto. Cioè, nella baraita in cui si dice che loro ricevono uno stipendio, quindi oltre al mangiare vanno a casa anche con una busta paga, ok? Lì devono dire la midà abbreviata. Lì il tempo è più costoso, costa di più, è più ha più valore e devono minimizzare il tempo che tolgono dal lavoro e quindi devono fare la midà abbreviata. Perché loro vanno a casa con la busta paga, con lo stipendio. Ossin bisharan, ricevono letteralmente la ricompensa, la paga. Invece, nel caso in cui ossin biseudatan, nel caso in cui lavorano per ricevere solamente il pasto di quel giorno, allora in quel caso devono dire tutta l'amida. In quel caso dal datore di lavoro gli togliamo un altro po' di tempo, in modo tale che loro possano dire più, possano dire l'amida completa. Ok? E la Gemara adesso conferma questa cosa da un'altra baraita, che citeremo la prossima volta, dove si vede chiaramente questa distinzione dal tipo di operaio. Quello che fa per stipendio e quello che fa solo per il pasto che mangerà quel giorno. Di nuovo, quello che fa solo per il pasto, gli togliamo più tempo al datore di lavoro e diciamo tu gli dai solo il pasto, lui deve fare tutta l'amidà. Quello che invece riceve lo stipendio, gli togliamo meno tempo al datore di lavoro e diciamo all'operaio devi fare la versione abbreviata perché non puoi togliere tutto questo tempo al lavoro che stai prendendo lo stipendio. Con questo concludiamo. Che concludiamo? La mida breve com'è? Eh? Com'è la mida breve?